Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ex Wärtsilä, ecco come si è realizzato il piano per una nuova realtà industriale a Bagnoli della Rosandra. Risorse idriche, falde di nuovo a pieno livello in regione, ma resta necessario attuare strategie antisiccità. Rifornimento ship to ship, per la prima volta a Trieste una nave da crociera ha fatto il pieno di gas liquido naturale. Anche a Trieste, seconda prova di ammissione per medicina e odontoiatria, anche per gli aspiranti matricola di Pordenone e Gorizia. Sicurezza sui mezzi pubblici in prefettura, Udine, si pensa ad un piano anticrimine anche per i bus extraurbani. 12:31 minuti, buongiorno da Andrea Saule e Rita Micoli. In primo piano ancora la firma dell'accordo sulla ex Wärtsilä, siglato ieri a Roma e che segna l'inizio dell'era MSC nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. In questo primo servizio conosceremo meglio la realtà industriale pronta ad installarsi alla ex Grandi Motori. Inoue era pronta a investire altrove, in Slovenia e Portogallo, prima dell'opportunità di Trieste. I protagonisti hanno parlato dei retroscena della trattativa dopo la firma dell'accordo di programma che ha sancito la cessione di Wärtsilä a 2 anni dall'apertura della crisi. Figura chiave Nicola Lelli, il massimo dirigente di MSC in Austria, che conosce Trieste avendoci vissuto un paio di anni. Questa posizione per noi già strategica nel porto di Trieste ci ha attratto e ha fatto sì che siamo riusciti a portare a casa questo progetto. Abbiamo iniziato a esplorare questa possibilità alla fine dell'anno scorso e siamo usciti allo scoperto a marzo. In questo periodo ovviamente abbiamo fatto tutte le verifiche del caso. Inoue ha partecipato alla pari tra Medlock del gruppo MSC e l'austriaca Innofreight, specializzata nella costruzione di carri ferroviari, il prodotto da realizzare a Bagnoli della Rosandra. Tra i firmatari, il proprietario dell'azienda stiriana, Peter Vanek. Volevamo costruire circa 1000 vagoni all'anno e la settimana scorsa ho avuto l'opportunità di parlare con circa 15 dipendenti. È veramente una bella impressione. La piena occupazione dei 262 lavoratori in esubero entro il 2027, ma potrebbero servirne altri. Speriamo, vorremmo anche creare un centro per manutenzione di vagoni, forse anche per locomotive, e così servono più persone. Per l'amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna, sono stati 2 anni duri. Non sono mancati scontri con le istituzioni, con i sindacati, persino con Confindustria. Non è stato facile, però è un grande passo avanti per il territorio. Da adesso continuiamo a costruire valore per il territorio, opportunità per il territorio, con 2 grandi aziende insediate. MSC a fianco di Wärtsilä. Wärtsilä che continuerà a operare in Italia con il cosiddetto service, dando lavoro a oltre 600 persone, per lo più a Trieste, e rimarrà nell'impianto di Bagnoli. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Se il sud Italia soffre la siccità, in Friuli Venezia Giulia, grazie alle abbondanti precipitazioni, le falde sono tornate ai livelli normali, ma a mancare la riserva rappresentata dalla neve, e quindi in vista non ci sono nuove opere per la creazione di bacini per la raccolta dell'acqua. Con le piogge di primavera e quelle d'autunno, le falde idriche della regione, dopo 2 anni di sofferenza, sono tornate a livelli regolari. In certi casi, come a Beano, vicino a Codroipo, e a Remanzacco, li hanno anche superati. Rosanna Clocchiatti, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Quest'anno la regione è stata la regione piovosa che conosciamo e quindi il recupero è stato importante, è stato comunque un recupero che ha permesso a tutte le falde in qualsiasi territorio di avere una buona quantità d'acqua e quindi garantire un'irrigazione strutturata in modo corretto. La campagna irrigua è stata regolare, le prospettive sono buone anche per i prossimi mesi, ma come spiega il Consorzio di Bonifica, l'apporto delle nevi è stato scarso e servono comunque nuove strategie per prevenire il rischio siccità. I progetti in campo, finanziati per 200 milioni di euro, prevedono la costruzione di bacini per la raccolta dell'acqua, ma anche l'ammodernamento della rete idrica per ridurre gli sprechi. E ora c'è anche una novità. Armando Di Nardo, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. È un progetto per il ravvenamento e per la ricarica delle falde in condizioni controllate nella pianura friulana, che è stato recentemente finanziato nell'ultima legge di assestamento con 250.000 euro. Con il ravvenamento gli impianti funzionano come pozzi al contrario. Sono le acque di superficie a venir fatte filtrare nella falda e non viceversa. Servono a tutelare le sorgenti e contrastare l'inquinamento salino nelle falde della zona costiera. Il piano al momento ne prevede 3. Per i tempi si parla di 12 o 18 mesi per iniziare i lavori. Tra i soggetti che coadiuveranno il consorzio figurano l'Università di Udine, quella di Padova, l'ARPA ed è stata chiesta la collaborazione anche a Legambiente. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata effettuata ieri la prima operazione di rifornimento di GNL, gas naturale liquefatto, nel porto di Trieste al Molo VII tra la nave cisterna Ravenna Knutsen e la nave da crociera Silver Ray da rifornire. Con l'ordinanza dello scorso 5 luglio la Capitaneria di Porto di Trieste ha approvato il nuovo regolamento per il bunkeraggio ship to ship di GNL, bio-GNL alle navi certificate secondo quanto definito dal Codice di Sicurezza Internazionale. Considerato che allo stato attuale nel compartimento marittimo di Trieste non ci sono operatori di bunkeraggio GNL in regime di concessione, queste operazioni sono state consentite in deroga a quanto previsto dal regolamento anche con navi o bettoline di società che non sono titolari di concessione. Le operazioni di rifornimento sono state monitorate in tutti i passaggi dal personale della Guardia Costiera. Coldiretti aveva già fatto tutte le osservazioni e rimarchiamo la nostra ferma contrarietà. Per l'ennesima volta notiamo la scarsa sensibilità di tutta la politica ai vari livelli. Questa è la prima dichiarazione del presidente di Coldiretti, Matteo Zolina. La notizia che il comune di Maniago ha dato il via libera alla bozza di convenzione relativa al progetto del maxi parco fotovoltaico da realizzare a Campagna di Maniago. Ignorare il recente decreto che introduce il divieto di installare nuovi impianti con moduli a terra e di aumentare l'estensione di quelli già esistenti nelle zone agricole è un grave errore. Coldiretti sostiene un modello di transizione energetica che vede le imprese agricole protagoniste, come ad esempio con le comunità energetiche o gli impianti solari sui tetti. Privare il nostro territorio, spiega Zolin, di 120 ettari di terreno irriguo è uno scandalo. Ancora una volta ha prevalso l'ideologia green, conclude, con contro il settore primario che produce cibo. Nel 2023 la raccolta differenziata di carta e cartoni Friuli Venezia Giulia ha superato le 72.000 tonnellate raccolte e avviate a riciclo con un incremento del 2,5% rispetto al 2022. A dirlo è il 29esimo rapporto annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartoni in Italia realizzato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. Lo scorso anno Comieco, attraverso le convenzioni attive in Friuli Venezia Giulia, ha gestito oltre 37.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 52,4% della raccolta. Ai 214 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi per quasi 4 milioni e mezzo di euro. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, ha in programma di effettuare una campagna di monitoraggio nell'area di Spilimbergo, che include anche una serie di inquinanti non normati, tra i cui diossine e metalli. Lo farà tramite un mezzo mobile per diversi mesi il prossimo anno, dopo che sarà stata completata la campagna di monitoraggio ancora in corso nel Maniaghese. Lo ha comunicato l'assessore regionale all'ambiente Scocimarro rispondendo ad una interrogazione in sede di quarta commissione. Ora è 12.38, il tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi e 5 decimi, a Gorizia 29 gradi e 5 decimi, a Udine 28 gradi e 5 decimi, a Pordenone 28 gradi, Tolmezzo 26 gradi, Forni di Sopra 23 gradi e 5 decimi, Tarvisio 22 gradi e 5 decimi, a Sappada 22 gradi, a Piancavallo 18 gradi e 5 decimi, Monte Zoncolan 18 gradi e 5 decimi, Grado 28 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 25 gradi e mezzo, a Lignano 28 gradi e temperatura del mare anche di 28. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per il pomeriggio: cielo sereno, poco nuvoloso, 20 a regime di brezza. Seconda sessione del test di ammissione a medicina che si svolge contemporaneamente in tutta Italia. All'Università di Trieste è la sede per i candidati residenti nelle province di Trieste, Gorizia e Pordenone, ma essendo la graduatoria nazionale non è detto che questi si iscriveranno proprio nell'Ateneo Triestino. All'Università di Trieste è in corso la seconda prova di ammissione per i corsi di laurea in medicina e in odontoiatria. Una seconda possibilità per quanti hanno già fatto il test a maggio, hanno avuto modo di prepararsi meglio in questi due mesi. Al fine dell'iscrizione potranno infatti scegliere il punteggio migliore delle due prove. Ho già fatto a maggio e riprovo perché volevo prendere un punteggio maggiore per poter entrare qua a Trieste. Io ho fatto una cinquantina di punti su 90 e quindi vorrei almeno provare a prendere una settantina. Che tipo di medico vorresti essere? Quale specialità? Allora, io vorrei fare l'anatomopatologo o il medico legale, insomma, quei medici che hanno a che fare un po' con i morti, con ciò che riguarda i casi di cronaca. Ho fatto il tentativo a maggio, questo è il mio secondo, quindi è il primo anno che io provo. E perché hai scelto di rifare il test adesso? E diciamo che io già sto studiando a Milano, quindi vorrei entrare, rimanere a Milano e quindi ho bisogno di un punteggio molto molto alto. A maggio ero abbastanza soddisfatta, sì, però. L'Università di Trieste è sede di svolgimento della prova per i residenti delle province di Trieste, Gorizia e Pordenone, ma la graduatoria è nazionale. Nicolò De Manzini, direttore delle scienze mediche dell'Università. Avremo quest'anno 200 posti a medicina per il primo anno. La graduatoria è una graduatoria nazionale, quindi potrebbe darsi che coloro che vincono qui abbiano fatto come prima scelta Roma o Napoli, quindi aver sostenuto il test ingresso qui non vuol dire che poi uno entrerà a medicina a Trieste. I candidati hanno 100 minuti per rispondere ai 60 quesiti con 5 opzioni di risposta su argomenti di biologia, 23 domande, chimica, fisica e matematica e ragionamento logico. La graduatoria nazionale sarà pubblicata il 10 settembre. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. In prefettura Udine un incontro preliminare per la messa a punto di un piano di sicurezza per il trasporto pubblico anche extraurbano dopo i recenti casi di vandalismi e di aggressioni a bordo dei mezzi. Un autista è stato aggredito con un coltello al collo, un altro si è trovato passeggeri che lo prendevano a bottigliate, c'è chi è stato minacciato di morte oltre a insulti e attacchi verbali. Le aggressioni sui mezzi di Udine e provincia stanno diventando numerose e sono di varia gravità. Per questo a Udine il prefetto ha convocato una riunione con forze dell'ordine, l'azienda dei trasporti e i sindacati dei lavoratori. Nicola Lauzana, segretario provinciale FILT CGIL. Abbiamo affrontato assieme alle forze dell'ordine quello che può essere un modello operativo da porre in essere per gestire le conflittualità che si sono trovate a bordo dei mezzi pubblici, non solo nel comprensorio udinese ma anche in tutta la provincia, per cui anche la Carnia, che ultimamente sta affrontando delle situazioni di estrema difficoltà. Il piano è ancora da definire, ma l'intenzione è di creare un protocollo di sicurezza applicabile in tutte le tratte, sia quelle verso Lignano e Grado, al momento le più in sofferenza vista l'affluenza estiva, sia quelle delle altre aree. Un'ipotesi avanzata dai sindacati potrebbe essere quella di presidi con controlli dei passeggeri al momento della salita sul mezzo, ma ci sono anche altre richieste. Claudio Caporale, segretario provinciale Orsa TPL Udine. Noi abbiamo chiesto ad esempio che si vieti l'utilizzo di alcolici sui mezzi, che è una cosa che purtroppo ultimamente sta accadendo, e c'è un utilizzo di stupefacenti sui mezzi, e anche questa è una cosa per noi molto pericolosa perché noi subiamo anche il fumo, no, che arriva in cabina. E speriamo che insomma in qualche modo si prenda atto di queste difficoltà che abbiamo giornalmente. A questo incontro ne seguiranno altri, probabilmente con una riunione ad hoc a settembre in regione. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'importanza delle attività delle associazioni di volontariato per rendere la vita nelle carceri sovraffollate meno frustrante in queste giornate di grande caldo. A Trieste, cantiere carcere della Caritas coordina i volontari di 17 realtà sia cattoliche che laiche. Sentiamo. Sono passate 3 settimane dalla rivolta nella casa circondariale di Trieste, costata la vita il giorno dopo ad un detenuto di 48 anni, ma nel frattempo altre rivolte sono scoppiate in diverse carceri italiane, anche a Gorizia, dove un detenuto ha dato fuoco al materasso e poi l'ennesimo suicidio, il 60° dall'inizio dell'anno. Si protesta per il caldo che acuisce il problema del sovraffollamento. La Caritas di Trieste ha appena donato 50 ventilatori al Coroneo e da un anno coordina attraverso il cantiere carcere l'attività di 17 associazioni di volontariato cattoliche e laiche. La responsabile, Vera Pellegrino. È una situazione particolarmente complessa da metabolizzare, indubbiamente, che crea apprensione rispetto a quanto è accaduto e a quanto potrà accadere. ma nel contempo devo dire che entrando nei giorni successivi ho trovato proprio forte il desiderio da parte di tutti di provare a creare delle condizioni più idonee possibili anche in questo momento così complesso, in cui mancano degli spazi, in cui stanno cercando di riorganizzare tutto. In questo contesto, incentivare le attività e i percorsi di formazione è fondamentale per rieducare le persone e aiutarle a integrarsi nella società. Questo è il primo obiettivo del cantiere carcere. L'altro è quello invece di sensibilizzare la città e la comunità in realtà a tutta una serie di temi che potrebbero aiutare realmente nel reinserimento delle persone. Tra le attività citiamo lo sportello di ascolto di San Martino al Campo, nati per leggere per i figli dei detenuti, le attività laboratoriali di Crivope di San Vincenzo, la scrittura creativa, elaborazione dei traumi, corsi di italiano e collaborazione con la formazione professionale. Noi riteniamo che sia davvero importante la presenza, stare con le persone, anche solo parlare con chi vive questa situazione, ma aiuta anche chi ascolta la vita, i percorsi di vita tanto differenti dai nostri. Trieste, Baciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi mesi a Trieste sono aumentati abusivismi, danneggiamenti e atti vandalici nei confronti di stabili e spazi di proprietà dell'ATER. Stiamo facendo il massimo per intervenire dove possibile con gli strumenti a nostra disposizione, dice il presidente di ATER Trieste, Riccardo Novacco. Quest'anno le segnalazioni hanno già riguardato 42 casi con sgomberi già attuati e verifiche in corso, un fenomeno che riguarda non solo la periferia cittadina ma anche il centro storico, i quartieri, il cui fenomeno è particolarmente accentuato. Oltre 6 casi su 10 sono Ponziana, San Giacomo, Borgo San Sergio, Altura, Grette e Roiano. L'abusivismo triestino è caratterizzato da una durata piuttosto breve delle occupazioni. Si tratta comunque di un reato perseguibile penalmente, con costi per l'ATER e quindi per la collettività, che derivano da danni agli infissi esterni, per l'accesso e alle finiture interne degli alloggi, accompagnati spesso da furto di energia elettrica e uso di sistemi di riscaldamento installati fuori norma. L'ATER evidenzia anche un aumento dei fenomeni legati a baby gang, vandalismi e molestie. Operazione congiunta di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri di Monfalcone e polizia locale per verificare la regolarità degli immigrati residenti. 5 agenti e 8 militari hanno controllato 15 abitazioni. Su 77 persone è stato appurato che 16 stranieri, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica a Monfalcone, erano di fatto irreperibili. Sono quindi state avviate le operazioni di cancellazione dai registri anagrafici. 6 le irregolarità in materia di ospitalità da parte di privati. Il cittadino che a qualsiasi titolo fornisca alloggio ospita uno straniero, anche se parente o affine, deve darne la comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. Le sanzioni comminate prevedono una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Sono emerse infine 17 persone in sovrannumero rispetto a quelle regolarmente presenti all'interno degli appartamenti e sono state emesse altrettante sanzioni da 100 euro per ogni inquilino in esubero rispetto a quelli regolarmente denunciati. L'assemblea del JECTGO ha confermato con voto unanime il mandato al presidente Paolo Petizziol, scaduto dall'incarico lo scorso 14 giugno. L'assemblea ha provveduto a riconfermarlo per ulteriori 2 anni come presidente del gruppo europeo di cooperazione territoriale. L'assemblea ha anche visto la riconferma o la nomina ex novo dei componenti nominati dal comune di Gorizia, il mandato dei membri dell'assemblea dei comuni di Nova Gorizia e Peter Vrtoibaskar scadrà invece nel 2026. L'individuazione di bandi europei per il periodo post 2025 è uno degli obiettivi trasversali del lavoro dei comitati. Nel primo semestre 2024 il mercato delle auto usate in Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita dell'11,6% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La fonte è l'ACI, un dato superiore alla media nazionale, più 8,9%. Inoltre, sempre nei primi 6 mesi dell'anno, nella regione crescono sensibilmente le radiazioni, 14.465, più 15,4%, ovvero la cancellazione delle vetture dal pubblico registro automobilistico. Un canale, quello di usato dell'ultima generazione, strategico per accelerare il rinnovo del parco circolante tanto atteso. A livello nazionale il budget di spesa per l'acquisto di un'auto di seconda mano è di circa 16.000 euro, mentre i prezzi medi delle auto vendite in Friuli Venezia Giulia nel semestre 2024 aumentano leggermente rispetto a prima, 23.740 euro, più 3,9%. Moderni droni e più classici cavalli per monitorare la zona del Meduna, teatro negli ultimi tempi di eccessi e di atti di vandalismo come l'abbandono dei rifiuti. Charlie per pattuglia equestre, ricevi? È partito il servizio di controlli a cavallo e con i droni sul greto del Meduna e sui magredi, attività della polizia locale di Pordenone e Cordenons per il monitoraggio dell'area e che consente di raggiungere anche le zone più impervie. Nicola Candido è comandante del reparto mobile della polizia locale di Pordenone e Cordenons. Il gruppo droni della polizia locale di Pordenone e Cordenons intercetta l'obiettivo, il target, invia le coordinate all'operatore sia col drone che con il cavallo e successivamente fa avvicinare sostanzialmente il cavallo nella zona più impervia o nella zona che non è facilmente raggiungibile da parte dei mezzi, dei veicoli a motore. L'area è stata teatro di alcuni eccessi, feste notturne, rave, anche con uso di sostanze, a cui le ordinanze comunali con la regia della prefettura hanno messo un freno. Resta il problema dell'abbandono dei rifiuti. Come vivere dunque in sicurezza e correttamente? Il fiume per molti un'oasi di fresco e natura a poca distanza dalla città. Ancora Candido. Cosa non si può fare? Accensione di fuochi, feste particolarmente rave, ecco, assolutamente vietati, impianti sonori particolarmente importanti e che arrecano disturbi alla quiete pubblica, assolutamente vietati, e poi ovviamente il tema ambientale, importantissimo perché è sentito da ciascuno di noi, assolutamente sullo sversamento dei rifiuti o l'abbandono di rifiuti, cosa assolutamente inconcepibile nel 2024 e giustamente tutelata dal sindaco e dal prefetto di Pordenone. Cordenons, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un rinnovo contrattuale dignitoso che consenta il recupero del potere d'acquisto, un piano straordinario di assunzioni per aumentare gli organici e ancora il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita per contrastare il preoccupante fenomeno dei suicidi tra i lavoratori, oltre che la prospettiva di una pensione dignitosa. Sono queste le richieste alla base della mobilitazione dei lavoratori della polizia e delle forze militari promossa dal SILP e dalla Funzione Pubblica della CGIL con il sostegno della Confederazione. La manifestazione in programma a Roma domani, mercoledì 31 luglio, ci sarà anche il segretario generale della CGIL Landini. La Safau, come non l'abbiamo mai vista, è una diga che ha cambiato in parte la storia del Friuli dell'ultimo secolo. Il doppio documentario di Ivo Pecile e Marco Virgilio, che sarà presentato alle 21.30 al Giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio a Udine. La storia della via friulana alla produzione dell'acciaio, iniziata nell'ultimo quarto dell'Ottocento, si sviluppa nel documentario di Pecile e Virgilio attraverso l'esplorazione delle rovine della Safau e dando forma alle ricerche approfondite di Andrea Negro, docente tra Padova e Venezia. Tra sviluppo tecnologico, capacità inventiva dei singoli, conquista sindacale e miglioramento graduale delle condizioni di lavoro, molto è cambiato dalla prima feriera di Udine del 1883 alla chiusura della Safau negli anni 70, un'epopea tutta friulana che ha portato Udine a essere la seconda esportatrice d'acciaio in Italia. Parlato interamente in lingua friulana, invece è Crosis, la diga in Saltiaghe, dove la narrazione segue il corso del torrente Torre a Monte di Tarcento fino appunto alla cascata di Crosis, una amatissima perla paesaggistica figlia della diga a sbarramento progettata e realizzata da Arturo Magnani. Marco Virgilio ci racconta meglio i due appuntamenti di stasera nel giardino di Piazza Primo Maggio. Fa parte della memoria del Friuli sicuramente perché è stato un passaggio intermedio molto importante, e naturalmente poi anche insieme alla Bertoli, ma in questo caso, siccome il documentario è ispirato a un libro, no, che è stato scritto da uno storico che si chiama Andrea Negro, giovane storico, allora naturalmente la Safau rappresenta quel passaggio dalla prima ferriera di Udine di fine Ottocento poi alle moderne acciaierie attuali, che l'hanno portata a essere la seconda esportatrice in Italia, per cui diciamo è una storia importante da quel punto di vista lì. La Safau è rimasta come testimone, un enorme scheletro, no? Potremmo definirlo, queste rovine che sono visibili a pochi passi dal centro della città, in attesa di magari una qualche altra destinazione, ma si spera anche che non caschino nell'oblio. Poi c'è anche una parte invece interamente in lingua friulana. Quella in lingua friulana è dedicata a un altro angolo della nostra regione, che è la cascata di Crosis, vicino Tarcento. Una cascata che è nata con la costruzione della diga progettata e costruita da Arturo Malignani, che sbarra le acque del torrente Torre, tra l'altro con un disegno e una realizzazione perfettamente integrata in quella natura, e crea questo salto d'acqua estremamente bello, che tra l'altro è molto frequentato in estate, tanti vanno lì a bagnarsi, ma al di là di questo quella diga forniva energia pulita anche al cascamiseta, che era questo cascamificio importante, che ancora oggi funziona e tra l'altro fornisce di seta di altissima qualità, nomi importanti della moda italiana. Ultimo notizia di sport, penultimo acquisto in casa Pallacanestro Trieste, che chiude il reparto lunghi con JC Johnson, lungo bianco di 213 cm, viene dalla Lega di Sviluppo dell'NBA, dove non ha mai esordito, agile per la statura, con un bagaglio tecnico limitato. Johnson fa delle sue lunghe leve del tempismo a rimbalzo le prerogative del suo gioco. Proprio il rimbalzo offensivo, statistica dove è stato tra i migliori del campionato, sarà utile alla squadra di Jamion Christian. Cercavamo statura, apertura all'area e presenza in area, ha spiegato il GM Michael Arcieri. JC è dotato anche di energia e intelligenza cestistica, oltre all'etica al lavoro e alla determinazione che gli hanno permesso uno sviluppo costante nella sua carriera. Sarà amato dai tifosi e siamo entusiasti di averlo con noi. Classe 97, ha avuto una carriera al college inferiore all'attesa ed è la seconda esperienza in Europa dopo una stagione in Romania, chiusa a 9 punti e altrettanti rimbalzi di media. Nell'ultima stagione con il Motor City Cruise di Detroit ha realizzato 10,8 punti catturando 10,6 rimbalzi. Era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontanot e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Samantha Agon. Da Andrea Saulo e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.